America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, vi comincio subito con un aggiornamento su quello che è successo ieri pomeriggio in Oklahoma, un dramma annunciato, un tornado che ha fatto molti, molti più morti di quello che si potesse sospettare, soprattutto perché si è trattato di un dramma annunciato. Le televisioni riprendevano, pensate, in diretta la formazione di questo tornado, un assembramento scuro, minaccioso, gigantesco, largo quasi 2 chilometri, che ha cominciato ad avanzare con forza inusitata, toccando il livello 4 della scala Fuggita, che ha un livello massimo a 5. Lungo questo suo percorso ha sollevato automobili, trasformato semafori in proiettili micidiali, sollevato animali, ha ridotto a un cumulo di macerie 2 scuole, dove i bambini erano rimasti chiusi proprio per proteggersi dalla furia del tornado in arrivo. E proprio fra i bambini che si conta il numero maggiore di vittime, chi dice 30, chi dice 20, chi dice 40, di sicuro ci sono almeno 70 bambini feriti in ospedale, alcuni gravi. Il numero totale dei morti, beh, non c'è un conteggio finale ancora, siamo al mattino, i soccorsi sono stati durante tutta la notte, ma si parla di un centinaio di morti. Bene, vi terremo informati sui GR per questo dramma in Oklahoma. Vorrei invece riprendere 2 storie che riguardano il mondo degli affari, le aziende che hanno colpito l'immaginazione degli americani ieri. Yahoo agrees to buy Tumblr for $1.1 billion. The two companies announcing the agreement today. Tumblr is a 6-year-old social blogging platform with more than 100 million users but very little revenue. Tumblr, beh, molti di voi non sapranno che cos'è Tumblr, è un microblogging e così è un sito che, pensate, ha pochissimo reddito, eppure Yahoo se l'è comprato. Ieri c'è stato l'annuncio ufficiale per 1,1 miliardi di dollari in contanti. E insomma, sono quelle operazioni che, soprattutto a noi che stiamo passando un momento difficile, non si riescono neanche a vendere le case, figuriamoci un sito che non fa fatturato. Però ha un vantaggio questo Tumblr: ha 300 milioni di visitatori unici al mese, 120.000 contatti al giorno, 900 nuovi post al secondo, uno dei network in crescita più rapida, mentre Yahoo, che a suo tempo era la grande star, era veramente il nuovo sito. Io mi ricordo quando a un certo punto tutti eravamo impazziti per Yahoo, e stiamo parlando in pre-Google, in pre-Facebook, e invece poi Yahoo è invecchiato rapidamente, ha avuto dei problemi finanziari, fino a che non ha trovato un nuovo amministratore delegato, un leader vero. Whenever you see consumers adopting a technology, a platform, you know, a particular application like search, this with this much volume, you know that advertisers will want to participate. Marissa Meyer è uno degli idoli di Silicon Valley, una donna giovanissima, bellissima, grandi promesse. Io l'avevo conosciuta durante un convegno in California, devo dire, mi aveva colpito perché aveva una forza di concentrazione straordinaria, e allora lavorava con Google, era uno dei top manager di Google. Poi si è resa conto che, insomma, a Google non avrebbe potuto aspirare alla carica di amministratore delegato perché c'erano i fondatori, c'erano alcune porte chiuse, e dunque ha scelto la sfida di Yahoo, piccole acquisizioni, e poi si è buttata su questo Tumblr. Pensate, Tumblr è nata a New York. Qualche settimana fa abbiamo parlato delle startup newyorkesi, abbiamo parlato di Silicon Valley, abbiamo parlato del Flatiron District, qualcuno di voi lo ricorderà. Ecco, questa è una di quelle centinaia di società nate a New York. Il fondatore è David Karp, ha avuto questa idea con un suo partner soltanto 6 anni fa, perché è nata da niente nel 2007, continua avere i suoi quartieri generali sulla 21esima strada, 35 East 21, subito al di là della quinta strada di Broadway. Quindi un matrimonio questo che dovrebbe promettere molto molto bene per il futuro di Yahoo. E in borsa Yahoo chiusa a rialzo più 0,23%, direi che questa acquisizione era nell'aria da qualche tempo, ma devo dire ha creato davvero sensazione, ha mosso comunque il mercato. Tutti si domandano, beh, ci saranno degli altri appuntamenti? Comunque la verità qual è? Beh, che qui L'economia si muove, le aziende comprano, investono miliardi di dollari, nuove frontiere che vengono sfondate ogni giorno, le attività di questo Tumblr, di questo microblogging, vi dicevo, dove vengono in continuazione con un crowdsourcing ospitati migliaia, centinaia di migliaia di messaggi, di micro messaggi, ha creato una nuova rete sociale, una nuova frontiera, nessuno ci aveva pensato. Beh, Yahoo a questo punto capitalizza e, come abbiamo visto in passato, per esempio la fusione tra AOL e Huffington Post, come abbiamo visto nell'acquisizione di Google con YouTube, si va avanti verso il consolidamento, la formazione di questo settore chiave per l'economia americana. Just give a big picture about compensation, JP Morgan, to start with, we don't and not had for 5 or 6 years special severance packages for executives, change of control, parachutes. Vi ho parlato di JP Morgan Chase. Ebbene, oggi è una giornata chiave. Tampa, Florida, ci sarà l'assemblea di quella che è considerata la più grande, la più importante banca americana, sotto il tiro delle autorità che stanno indagando ancora su presunti illeciti di JP Morgan Chase, non solo per l'operazione sulla balena bianca, dove ci fu una perdita di 6 miliardi di dollari, un'operazione considerata un po' spericolata, dove non c'era stato un controllo sul rischio, ma per altre operazioni in derivati. Diamond ha una posizione molto chiara: se separate le cariche, me ne vado. Qual è la sua forza? Beh, la sua forza è che quelle perdite, 6 miliardi di dollari, sono state riassorbite in un trimestre. Io non credo, francamente, che gli azionisti finiranno per trovare una maggioranza per separare questi due ruoli e dovranno essere ben consci di una conseguenza molto chiara. Diamond ha annunciato che se per caso quella dovesse essere la decisione, beh, lui se ne andrà. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Taylor Swift, la bellissima Taylor Swift, ha trionfato al Billboard Music Awards domenica notte, si è aggiudicata, pensate, 8 premi, tra cui miglior artista, cantante dell'anno. Il suo ultimo disco Red, con 3,7 milioni di copie vendute, ha vinto nella categoria di miglior disco e miglior disco country. Dunque, Taylor Swift, Red. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.